later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, fabbrica di polli, il mantice del tempo in apparenza ha smesso di respirare. Cappa e Drago sono nascosti sul camion dell'impresa di cattura. Drago, allora, hai capito? Appena saremo usciti dai recinti della fabbrica, salteremo giù, è chiaro? Sì, sì, è chiaro. Adesso però stai giù. Dici che questa è davvero la volta buona? Ma è ovvio, Drago, dai. Come abbiamo fatto a non pensarci prima, poi? L'impresa di cattura. L'unico legame con il mondo esterno che esista nella fabbrica. Senza contare l'amministratore delegato. Ma l'amministratore delegato è una figura sfuggente, dai. Non so nemmeno se abbia una vita fuori di qui. Invece questo camion sicuramente ci porterà lontano. Cappa, ma... ci siamo fermati. Non so, dovranno far vedere le bolle di accompagnamento al personale di guardia. Che ne sai tu di bolle di accompagnamento? Drago, dai! Quante parole inutili. Aspetta e vedrai. Cappa. Parla piano. Drago, questi qui sono i mercenari belgi. Quelli che avevano aiutato il colonnello Ngiute a entrare nella fabbrica. Ti ricordi? Vedi, edizione precedente. Sono loro. Però perché ci siamo fermati? Perché i mercenari stanno scaricando le cassette? Non lo so. Non sarà che... Che? Che il mattatoio è semplicemente un altro edificio della fabbrica. E che quindi? E che quindi il viaggio del camion è finito? Addio, fuga. Addio, libertà. Un camion per fuggire. È così che si fa quando si è in guerra e l'armistizio ti coglie di sorpresa in territorio straniero. Un camion per tornare a casa. E invece noi no, porca puttana. Noi no. Il nostro personale camion della libertà è solo un'altra incarnazione di Caronte. Ci traghetta nell'aldilà. Al di là, al di là. Ma Cappa, quale Caronte, quale al di là? Al di là, l'unica menata qui è che non siamo usciti, perché io non ho mica paura di finire macellato. Basta scappare. Sì, come glielo spieghi ai mercenari belgi? Ma loro che ne sanno? Loro stanno solo attenti a polli, cozze e bambini in età scolare. Noi non siamo né polli, né cozze, né bambini in età scolare. È sicuramente strano che a questo punto della storia entrino in scena dei mercenari belgi. Mi permettete, moi, che je me présente, moi. Moi, je m'appelle Jean-Christophe e je suis un mercenario belga. Da un po' di tempo lavoro come catturatore di polli dopo aver fatto il soldato a pagamento, ossia il mercenario belga, per tanti anni. Je crois que mon parcours de vie possa servire da esempio per molti altri mercenari belgi che, come moi, fanno ancora di mestiere i mercenari belgi in Belgio. Les moules, les frites et les petits enfants. Allora, Joao, la dieta continua, eh? Niente mangime, niente mais, niente di niente. Ma io ho fame. Ma no, ma quante volte te lo devo dire? Ma guardati, tu sei un pulcino denutrito. Hai 10 giorni e peserai mezzetto. E questo ti permette di non venire macellato tra 27 giorni. Cosa che invece capiterà ai tuoi amici nati con te, eh? Eh sì, loro mangiano continuamente, ingrassano e così zac, li tagliano la testa. E chi si è visto, si è visto. Tu invece, rimani magrolino e vedrai che la scapperai. Ma episcopale? E appunto, il digiuno è un ottimo mezzo episcopale. Cioè, più hai fame, più ti arrazzi, no? Non è mica vero. Beh, voglio mangiare e episcopale. Ma no, non si può tutto insieme. O mangiare e poi morire, oppure digiunare e poi episcopale. Scegli tu. Episcopale. Va intanto nei disertati sotterranei della fabbrica di polli, dove l'aria è spessa come una bistecca alla fiorentina. Avvengono cose che nessun cervello umano potrebbe riuscire a comprendere. Cose come le avventure di la cavia da laboratorio. Ho ricevuto adesso le fotografie del mio nuovo servizio fotografico per il nuovo anno, per la stampa, perché noi facciamo molta attività di comunicazione. La mascheriamo dicendo, facciamo pagare i servizi fotografici alle aziende, no? In realtà i servizi fotografici dovremmo pagarli di tasca nostra, se fossimo onesti, e così ci facciamo belli. Poi andiamo a comprare i giornali, non ci andiamo mai, perché ci mandiamo sempre qualche disgraziato dall'azienda. Invece quando sappiamo che esce una copertina con la nostra faccia ci andiamo noi, allora nascondiamo la rivista con la nostra faccia in copertina nel quotidiano per far finta che non ci interessa, eccetera. Invece poi guardiamo l'edicolante per vedere se ci ha riconosciuto, capito? Ci gonfiamo il pettino ci gonfiamo. Fai presente il pollo dei fast food? Sì, i pollini. Secondo te quello è pollo? Sì. Pollo, come dire che il compensato è legno. Ma no, Drago, è pollo, anzi è il pollo come siamo abituati a vederlo ormai. Sarà. Esistono studi che dimostrano che ormai il pollo ruspante, una volta fatto assaggiare a un campione di persone al di sotto dei 45 anni, non viene più riconosciuto come tale. Mentre quello del fast food sì, capito? È il pollo del fast food l'unica vera carne di pollo universalmente riconosciuta come tale. Vabbè, ma allora potrebbero smetterla coi polli veri, cioè con tutta sta menata qui delle uova, la schiusa, eccetera, e creare una specie di animale fantastico fatto solo di petto di pollo, ma senza il resto del pollo, senza le piume, zampe, la testa. Sono sicuro che con la biogenetica si può fare. Quindi no? Sarebbe il petto di pollo senza il pollo intorno. Senza il pollo. È un'ideona. Sì, però come si riproduce, scusa? Cioè c'è il petto femmina e il petto maschio. Certo, e poi fanno i pettini piccoli che crescono, no? È più o meno come quei pulcini e i polli, solo che una volta uccisi li metti subito in padella, no? Però non esisterebbero più fabbriche di polli, ma fabbriche di petti di pollo, quindi. Sì, e in Asia, nell'est europeo, fabbriche di cosce di pollo. Coscia maschio, coscia femmine, coscini, stesso schema. Sì, poi anche, non so, fabbriche di filetto di vitello, fegato d'oca, bastoncini di pesce, bracciole di maiale, una rivoluzione. Ma capa. Sì, basta con l'allevamento degli animali interi. È ora di fare una moratoria internazionale, esattamente come per la pena di morte. Drago, bisogna portare una proposta all'ONU. All'ONU, giusto. All'ONU. E poi fare anche uno sciopero della fame e della sete. No, ma per quello ci pensa già Joao. Digiuna da 2 settimane. Andiamo avanti così, sì. Wow. Povero pulcino, ma quanto manca alla sua esecuzione? 27 giorni. 27 giorni? Ma è pochissimo. Save Joao. Minus 27. Che cosa succederà adesso? La fabbrica di petti di pollo diventerà una realtà? E se sì, esisterà una fabbrica di teste di gallo nero per alimentare il mercato delle messe sataniche? Lo scoprirete soltanto lunedì a mezzanotte su Radio 3 per i prossimi baluginanti allestimenti de... La fabbrica di polli produce... Non muoce quasi mai... La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. Con Roberto Accornero, Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Giovanni Della Morte, Luca Gemma. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.